l'identificazione piena con ogni singolo filo di erba nuvola rafforza anziché svilire la facoltà di essere diventati umani e di valutare tutti gli aspetti di questo nostro tempo che non può solo essere considerato storico. Ma ringrazio la storia per essersi rivelata senza farmi male. Appoggiato con la propria testa su quella balaustra che gli permette di incrostare i propri capelli e la propria barba di quella salsedine nel mare che gli sale su da quella scuola, posti alla base di quel faro che ha appena acceso e che gli permette di incrostare nel mare out of the shell. Si perde nei propri pensieri. Fuori d'appartamento, come una bestia in tana, mantengo cauto l'appostamento. Non sarà per tanto. vuole la vita, vuole la vita. Auto Digital. Un delirio indipendente di intervento sociale. Perché è fatto di un'esistenza, è fatto di un modo di pensare, di un modo di rappresentarsi, un modo di sincero di essere. E quello che ascoltate, il suo modo di fare, il suo modo di esistere, è un essere vero ma non esprimere una verità, appunto. È esprimere semplicemente l'insignificante metabolizzazione personale di un'esistenza fatta di una quotidianità e di una sequenza di secondi dietro secondi in cui si cerca di essere presenti. Per questo è un delirio. Indipendente perché spiegare perché si è indipendenti o perché si è liberi non credo che lo si possa fare. Lo si è e basta. Lo si è per la tua esistenza, per le scelte che fai, per la quotidianità. E perché non accetti ogni forma di massificazione, di globalizzazione, l'unico punto di rapporto che hai con te stesso è la tua coscienza e la tua consapevolezza. Ed è quello che rende indipendenti. Quello che ti fa fare scelte che forse ti fanno soffrire, però che dentro ti fanno dare una consapevolezza di non essere schiavi. We'll be right back. poi out of the shell è, come dice sempre, un piccolo granello di sabbia in un'immensità di deserto, una piccola larva, un grande pianto nell'immensità dell'oceano. Nel momento in cui questo deserto e questo oceano vengono rappresentati come quel grande equilibrio cosmico di cui ognuno di noi siamo quella parte infinitesimale e insignificante. Questo almeno crede Out of the Shell, fare se stessa un intervento sociale. Di un grande contenitore che si chiama transizione di fase ed è attraverso il quale questo lo è, perché www.transizionedifase.org è il canale principale, il contenitore che usa il www.office.it, sono le ramificazioni, quei canali attraverso i quali lasciarsi andare ed entrare in questo mondo. Permette di far sì che potete ascoltare tutto quanto in diretta, come potete ascoltare tutto quanto in differita. Come i canali di comunicazione che voi potete avere con Out of the Shell sono uno mediato e uno diretto. Quello mediato significa utilizzare la mail Out of the Shell o il sito di Out of the Shell www.ots.it www.outoftheshell.it, dove potete lasciare i vostri commenti rispetto a quello che è il senso stesso, quello che in termini tecnici viene chiamato post, di ogni giorno, fruibile a tutti. Poi potete inviare la vostra mail a ots@libero.it. comunicare con l'orso, quell'orso in diretta, allora dovete usare l'MSN o tutte le sue ramificazioni. L'indirizzo che dovete utilizzare è car@ots.it. Chiaramente, car si scrive car @hotmail.it. Devo confessare una cosa. Venerdì avrei dovuto giocare su il concetto stesso di sfiga, ed è quella che bene o male mi trovo quotidianamente a dover affrontare nel momento in cui in tutto questo progetto io mi ci trovo dentro. Quella particolare sfiga che fa parte dell'essere sicuro di tutto ciò che funziona e che poi torni a casa e qualcosa non funziona e devi inventarti all'improvviso, specie quando tu pensi di realizzare tutto, come si diceva una volta, in presa diretta. E nel momento in cui, non avendo avuto la possibilità di far ascoltare quello che era avvenuto giovedì, ho chiesto di mandare in onda quello che avevo realizzato giovedì per prendermi un attimo di pausa, un fine settimana di pausa di cui avevo bisogno. Avevo bisogno un attimino di riordinare le idee, di rientrare nei pensieri, nel mio mondo. Quel mondo che non è fatto di quel mondo che non è fatto di ritmi ossessivi, ma di danze sinuose, ma nello stesso tempo di malinconici ricordi. Thank you. confesso una cosa. Ciò che è avvenuto nel momento stesso in cui stava andando in onda tutta questa sequenza musicale. Allora, il concetto stesso che io volevo sviluppare nella trasmissione di stasera era un concetto molto semplice. Era quel concetto in cui il concetto che si sviluppa nel momento stesso in cui tu a un certo punto chiudi gli occhi, non so se capita a nessuno di voi mai, ti metti la testa tra le mani e cominci a riflettere, cominci a ricordare, cominci a pensare a ciò che è passato e ciò che è quel piccolo futuro che in un modo o nell'altro dentro di te appartengono. E quella è la piccola cosa che tu, per cui tu lotti, perché esista, perché avvenga, perché sia una piccola parte di te. E quello è il sogno che in un modo o nell'altro ognuno di noi ha, per dire prendere energia da tutto quello che il passato che ti ha trascorso, che ha fatto parte di te, che ha fatto e quell'energia che trovi dentro di te, quei piccoli momenti in cui ti sei illusa o illuso di esistere, di pensare che un altro mondo è possibile, e ti sei tuffato in quel mare, e in quel mare buio. Non so se qualcuno di voi ha mai visto una profondità buia del mare in cui tuffarsi. E almeno io, quando quelle rare volte ormai che vado a mare e mi capita di tuffarmi, guardo quell'elemento in cui mi immergo e vorrei vedere un fondo. Sto parlando di quando quel fondo non lo vedi, vedi quel buio, non comprendi l'immensità in cui ti immergi e che nello stesso tempo lo fai, ma hai paura. E questa è la sensazione. Io l'ho provata alle olie, questa sensazione. Ero praticamente sfatto dalla sera prima, in cui avevo scoperto la musica di De André. Siccome io ascoltavo solo musica straniera, c'era stato qualcuno o qualcuna in una tenda che invece voleva farmi ascoltare De André, Mi sono svegliato l'indomani mattina, ero giovane, praticamente sfatto. L'indomani mattina ci siamo trovati là alle Oli ed ero su una barca e avevo voglia di farmi il bagno, volevo tuffarmi da quella barca. Ma sotto di me il mare era un buio totale. Ma nello stesso tempo avevo bisogno di buttarmi dentro l'acqua per risvegliarmi, per riprendere coscienza di me stesso. Allora, ci sono tuffato, non ricordo se mi sono tuffato a palo o a pesce, perché avevo una paura della Madonna. Io uso questi termini della Madonna di Dio, porca miseria, tutte queste cose come espressioni e intercalazioni di abitudine, ma non perché credo di offendere nessuno. Però ho superato quella paura e ci sono immerso. Nel momento in cui mi sono immerso in quel buio, la sensazione più bella che ho provato era guardare verso l'alto e vedere la luce. Da quel momento quella luce per me ha rappresentato tantissimo. Ha rappresentato lo zen, ha rappresentato la meditazione, ha rappresentato il concepire stesso della comunicazione. E cazzo, mentre io stavo facendo questa trasmissione, porca puttana, mi chiamano e mi offrono un contratto per renderla ancora migliore. Ora basta, no? Ed il disordine dietro alle spalle. Questo è un bel giorno per dire ora basta, no? Io ricomincio e riparto da qui. Lai la E ripartiamo da qui, ripartiamo da. Allora, vi racconto quello che è avvenuto qui immediatamente nel momento stesso in cui andavo in out of the shell. Mi telefona uno sfigato del call center, non vi dico l'operatore, e mi telefona su uno dei miei due numeri e non vi dico l'operatore. Io non ho una linea fissa a casa, non la ho perché non mi serve sprecare soldi quando ci sono solo esclusivamente per dormire, da mangiare ai miei cani coccolarmeli un poco e mettermi in ordine e sopravvivere. Tutte le mie relazioni personali ce l'ho purtroppo via cellulare. Allora, uno sfigato di un call center, che glielo dico domani e si sentirà la registrazione di questa trasmissione, mi chiama pensando di avere a che fare con una persona qualsiasi, prende e mi propone un contratto. Allora, chiaramente per il tipo di lavoro che faccio, per l'esperienza che ho, per tutte quelle cose che conosco, senza se per caso io sapessi che mi potevano mettere una linea ADSL via cavo, mi risolvevano 3000 problemi, principalmente per out of the shell. Gli spiego, guarda che sono in diretta radiofonica, sto facendo una trasmissione in diretta, però volevo vedere sino a dove arrivava. È chiaro che gli operatori telefonici sono ormai sgamati e registrano tutto quanto. Lui mi propone un contratto, mi dice: aspetta un attimo, ti richiamo tra 10 minuti, spreco un'altra telefonata. E mi fa: no, in 20 giorni ti attiviamo la rete. Io gli spiego: guarda, a me interessa solo esclusivamente una rete satellitare, perché mi serve una rete mobile. Me la puoi dare? E mi fa: no, però ti posso dare la rete fissa. Gli dico: vabbè, sapendo che stavano registrando tutta la telefonata. E gli faccio: vabbè, mi può andare anche bene per le tariffe che mi dai la rete fissa. E in quanto me l'attivi? In 48 ore? Mi fa: no, aspetta che chiamo, te l'attivo in 20 giorni. Io gli faccio: vabbè, in 20 giorni viene il tecnico. Io gli dico: guarda, io ho già avuto un'esperienza in cui mi hanno detto in 20 giorni e non sono arrivati perché non si può attivare. Per cui fammi chiamare dal tecnico, se viene entro 20 giorni io gli firmo il contratto, perché io voglio vedere prima il contratto e poi... sapendo che registravano tutto quello che dicevo io. E a un certo punto gli ho spiegato pure che lavoro faccio io e gli ho detto: guarda, non, io capisco il tuo lavoro, che tu devi fare un contratto e sei uno sfigato, però non prendere per il culo me, perché capisci quanto stai prendendo per il culo. E gli dicevo: guarda, io in questo momento sono in diretta radiofonica, sto facendo questa trasmissione, non gli ho spiegato che cazzo di trasmissione stavo facendo, glielo spiego domani quando mi telefona alle 17:01 e mi dice che non mi possono fare il contratto, perché appena i capi suoi leggono quello che ascoltano tutto quello che gli ho detto io, in cui mi sono parato il culo e gli ho già dato tutti i parametri in cui io annullo il contratto, perché gli ho dato tutti gli indirizzi, tutto quanto, e gli ho detto: se entro 48 ore non mi attivi la linea e tu mi dici che hai verificato e mi puoi dare la linea e tutto quanto e non me l'attivi e hai bisogno di 20 giorni, vuol dire che sei uno sfigato. Cazzo, io oggi volevo parlare d'amore, volevo parlare di quando hai quel cazzo di sentimento dentro di te che da una parte del cuore si atrofizza e dall'altra parte del cuore invece compensa tutta quella atrofizzazione. Invece io mi devo continuamente confrontare con una realtà che sono una presa per il culo. Ora, cioè questo povero poveretto, sapendo, nel momento in cui gli ho spiegato che non ho bisogno del modem, perché io basta che mi porti il modem con lo stesso operatore dal mio studio a casa, ho risolto il problema, tu mi devi solo dare la linea. E quando mi ha detto lei vive in campagna, io ho detto no, vivo in collina e so che l'unica cosa che mi serve è una connessione satellitare a poco prezzo. Ha continuato a dirmi perché doveva tentare di farmi fare un contratto. Allora, dovete sapere cosa succede. Tra 48 ore mi arriverà il contratto. Io devo mettermi gli occhiali, leggermi tutte quelle clausole e mi dice tanto lei entro 10 giorni può recedere, e io gli faccio ma se tu mi dici che entro 20 giorni mi dai la linea, io come posso sapere se il contratto per me è favorevole o non è favorevole e devo recederti entro 10 giorni, che per me è impossibile, perché io ti recedo al contratto entro 10 giorni, devo spendere soldi, quando tu mi dici che entro 20 giorni mi danno la linea. Ora, la morale di tutto questo sapete qual è? È che io ho fatto un favore a un operatore di un call center, nel senso che lui attiverà il contratto, mi arriveranno tutto il contratto perché io l'ho chiesto prima di essere operativo, di firmarlo e conoscerlo nei minimi dettagli, siccome loro hanno tutta la registrazione in cui ho chiesto, prima di prendermi per il culo mi faranno recedere dal contratto, però lui farà i soldi. Bene, per questo almeno per me come individuo aver fatto del bene. Thank you.

sapete come funziona il call center? Nel senso che c'è una gerarchia di stronzi che partono dalla seconda categoria in poi. Nel senso che tu devi far firmare un contratto che qualsiasi sfigato che trovi che non capisce come funzionano le cose ti dice sì subito, perché pensa di risparmiare soldi, perché ti dicono ciò che devi pagare al mese vale di meno della tua bolletta, solo che le bollette te le mandano ogni bimestre e tu le devi pagare. Poi ultimamente sono ancora più scaltri e ti dicono se non hai un conto corrente bancario, postale, tutte queste cose non ti firmiamo il contratto e là ti salvi, perché a un certo punto te lo fanno. Quelli che ti telefonano, come quello che ha telefonato a me poco fa, dice intanto io ti faccio il contratto, ti mando i bollettini, se non li paghi ti faccio l'azione esecutiva. Questo è il meccanismo che ha creato la crisi globale. Solo che se sei un po' furbo e conosci i meccanismi, come funziona tutto, allora sai che principalmente sono diventati più sgamati, per cui registrano tutto e tu cominci a dirgli io so che stai registrando, per cui e dall'altro lato sì, ti dicono io sto registrando, allora tu gli poni le tue condizioni contrattuali, perché un contratto viene sottoscritto nel momento in cui le condizioni vengono accettate e nel momento in cui rispetta le concessioni che ti vengono proposte, le clausole che ti vengono proposte, se tu gliele contesti e gli poni delle altre clausole, il contratto è nullo. Perché se loro non adempiono nel momento stesso in cui tu gli porti le condizioni, automaticamente gli dici guardi, prendiamo quella registrazione, tiriamola fuori perché io so che è stata registrata, e siccome in 999 casi su 100 è registrata e gliela mettono nel culo a qualcuno, e allora a quel punto dici ora vediamo se me la metti nel culo a me. Torno a ripetere, questa sera volevo starmi per fatti miei, volevo parlare di poesia, di quella poesia sublime che è la necessità di contatto, quel piccolo momento in cui tu decidi di aprire tutto te stesso. E sinceramente non si può più vivere in una società come questa. Ancora sta stasera che il tempo ha scelto me, cantami versi del tuo essere vago inerrabile, incoronato da poetici gesti e teatralità. Parla per non permettere che il vuoto mi faccia fermare, pensare a chissà come andrà. Capito niente, perso tra i miei sensi, le parole cambiano colore. Lasciarmi il silenzio di questa notte che va, parlami ancora, che presto per me il tempo finirà, anche da un posto più lontano un ricordo, un aeroplano. Che la voce risuoni fin qua. Ed io sorriderò per non aver capito niente, per poi incontrare strano il mio sorriso e chiamarlo amore. C'è una cosa che mi chiedo perché. Perché se si condividono determinati valori, perché se si condividono determinati ideali. Perché cerco una spiegazione a questo perché. Ho ancora la forza che serve a camminare, picchiare ancora contro per non lasciarmi stare. Ho ancora quella forza che ti serve quando dici si comincia. E ho ancora la forza di guardarmi attorno, mischiando le parole con due pacchetti al giorno, di farmi trovar lì da chi mi vuole, sempre nella mia camicia. Abito sempre qui da me, in questa stessa strada che non sai mai se c'è. E al mondo sono andato, al mondo sono tornato sempre vivo. Ho ancora la forza di starvi a raccontare le mie storie di sempre, di come posso amare, di tutti quegli sbagli che per un motivo o l'altro so rifare. E ho ancora la forza di chiedere anche scusa o di incazzarmi ancora con la coscienza offesa, di dirvi che comunque la mia parte ve la posso garantire. Abito sempre qui da me, in questa stessa strada che non sai mai se c'è. Nel mondo sono andato, dal mondo sono tornato sempre vivo. Ho ancora la forza di non tirarmi indietro, di scegliermi la vita masticando ogni metro, farla conta degli amici andati a dire ci vediamo più tardi. E ho ancora la forza di scegliere parole per gioco, per il gusto di potermi sfogare, perché che piaccia no, è capitato e sia quello che so fare. Abito sempre qui da me, in questa stessa strada che non sai mai se c'è. Col mondo sono andato, col mondo sono tornato sempre vivo. A tutti voi e non voglio dirlo a quel povero sfigato che glielo dirò domani, che ha cercato di vendere un contratto a me che potrebbe risolvermi un problema. Che è quello di esistere. Allora dico una sola cosa, nessuno offre a nessuno niente. Siamo nell'implosione del capitalismo, e il capitalismo l'unica cosa che ha scelto è quella di arraffare. noi siamo un altro mondo. Noi siamo quelli che resistiamo, che esistono a prescindere, non perché è facile, ma perché è l'unica soluzione per esistere. Leggevo delle mail oggi in cui si diceva che transizione di fase, è una cosa semplice perché esista. Bene, fatela. Fate transizione di fase. Transizione di fase è un'entità astratta che non esiste. Non esiste perché nessuno ha i soldi per farla funzionare, tutti quanti ci impiegano la propria volontà, tutti quanti resistono per credere in questa realtà. Noi siamo oltre, siamo molto oltre l'esistenza. Quell'esistenza semplice che tutti quanti dicono basta una chiavetta, un computer e si esiste. Bene, dai i contenuti di quello che esisti, specie se sono contenuti che vuoi propagandare. Signore e signori, visto le difficoltà e le complicazioni dell'attuale momento storico e della cittadinanza, da oggi in poi dimostrato abilità, doti e capacità, essendo colpevoli di offesa alla pubblica morale, saranno condannati a vivere il resto dei loro giorni nella Repubblica del Paese dei Ciucci. Quando si mangia non si gamba, ma si mora. Mora, mora, mora, mora. E non voglio morre, no. E non voglio morre, no. E non voglio morre, no. E non voglio morre, no. In tuo paese di ciuccia. I-o, i-o. O paese di ciuccia. I-o, i-o. O paese di ciuccia. I-o, i-o. O paese di ciuccia. I-o, i-o. O paese di ciuccia. voglio vivere, no. Io non voglio vivere, no. Io non voglio vivere, no. In tu paese di giudici, io, un paese di giudici, io, un paese di giudici, io, un paese di giudici, io. C'è un fiore che balla sopra il tavolo bianco, c'è la neve che scina dentro il fiume che scorre, c'è un ragno che vola. Bene, ora tutto qui è finito. Finisce qui, ci ritroveremo domani, non perché è un obbligo, non perché è un dovere, ma semplicemente perché è una voglia. Ciao, a domani. Per l'istinto che io so di scivolare. uno squarcio nel cuore. Come un animale, per l'istinto che io so di sanguinare, so che scendo nel vuoto.